Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Natale è una gioia che nasce nella notte. Natale è un bambino. Perché la mamma di papà e tutti quelli che sono qua. Siamo piccini e di parole sappiamo due sole. Le volete? Sono queste. Buon Natale, buone feste! Grazie! Sì, lo so, è orribile, però l'abbiamo fatto tutti. Alla fine ci siamo passati anche noi, una sorta di forche caudine per compiacere l'egocentrismo delle mamme, delle maestre. Abbiamo recitato le poesiole, canzoncine di Natale, abbiamo fatto il lavoretto di Natale a scuola con delle orribili operazioni di necrofilia, con mollette, conchigliette, animali disseccati, frutta secca e via dicendo. Insomma, ci siamo passati tutti. Su questo si sta consumando lo scontro tra civiltà. Sulle canzoncine di Natale, sulle recite di Natale, su quello che accade sotto Natale, improvvisamente gli italiani sono trovati tutti coesi, e a farne le spese è stato l'uomo più bastonato degli ultimi anni, che è stato il prete della scuola di Rozzano, che non so bene cosa abbia fatto, ma oggi cercheremo di chiarirlo. Comunque si è messo contro qualcosa o qualcuno che voleva mantenere viva la tradizione delle canzoncine di Natale a scuola, e lui, compiendo un gesto di totale ibris, dicendo ma no, rimandiamole a Capodanno o qualcosa del genere, ha fatto sì che fosse preso poi a calci in bocca da laici, da mangiapreti, da atei, da comunisti, da gente di estrema destra, insieme ai sacrestani, alle perpetue, al capo dei vescovi che ha parlato poco fa, avete sentito al giornale radio. Beh, perché accade tutto questo? Innanzitutto partiamo con la storia. Alla fine il passo indietro del preside è arrivato. La sua controversa decisione di togliere dal concerto di Natale tutte le canzoni a sfondo religioso e di rinviarlo a gennaio per non urtare la sensibilità degli allievi non cristiani ha fatto sì che da due giorni tutta l'Italia parli di questa scuola tra i palazzoni popolari di Rozzano, Interland di Milano. Suo figlio non festeggerà il Natale a scuola? Ma lo festeggerà, perché saremo noi padri a farlo fare. La festa, come ogni anno, se è fatta, si deve fare ancora. Tu scendi dalle stelle, gigno bello. Le nostre tradizioni vengono prima di qualsiasi cosa. Questo preside sarebbe da prendere e buttarlo fuori dalle scatole subito. Da Bega di provincia, le proteste dei genitori della scuola di Via Garofani sono diventate un caso nazionale. Non è rinunciando al Natale che si fa il dialogo. Le nostre tradizioni, ha detto il presidente del Consiglio Renzi, sono più importanti di un preside in cerca di provocazioni. Dal canto suo, il dirigente scolastico contestato, Marco Parma, un passato da candidato sindaco grillino proprio qui a Rozzano, ha rimesso il mandato nelle mani dell'ufficio scolastico regionale. È stato sconfessato anche da Beppe Grillo, poverino, è una sorta ormai di giobbe, il pare tra i pari, all'emarginato, la scomunica totale su questo prese, però vale la pena di interrogarsi. È veramente per noi tanto importante, fondamentale, lo abbiamo riscoperto adesso, grazie al preside di Rozzano, che non possiamo farne a meno, 80024 0024. A me l'impressione è che a fare festa a Natale siano soltanto i cinesi, che sono gli unici ormai a vendere allegorie e fantasmagorie per presepi e per alberelli Natale, però me lo direte voi fra un istante. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Melog, cronache meridiane. Siamo in Italia, non siamo all'estero, hai capito? Io credo, i bambini devono cantare Jingle Bell e basta, e tu vedi delle stelle, ok? Signora, no, ma Jingle Bell non è che c'entra proprio tanto. Federico, la situazione è veramente calda qua, continua. In Italia! Allora, signora, ti faccio dare però una lista dei canti natalizi, quelli diciamo cattolici, perché credo che proprio abbia citato un pezzo che non c'entra un granché. Con la cultura italiana, Jingle Bell, oltretutto. Vabbè, ma non c'è spaccato più fantastico della società italiana che i collegamenti tra la folla della panicuccia mattino 5. Le mamme assatanate, arrabbiate, forti della loro identità, basate su canti natali di cui non conoscono nemmeno le radici, facendo delle confusioni enormi. Ma questo ci sta bene. Cosa ha fatto il professore Marco Parma, dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo Garofani di Riozzano. Cerchiamo di capire mentre siamo seguiti dalle agenzie, dalle notizie. 800 24 00 24, il vostro punto di vista. Farete alberello e presepe? Andate a prendere il muschio per fratte o semplicemente comprate quello dei cinesi fatto in diossina condensata e tinta di verde? Per voi è veramente importante, indispensabile? A quanto non lo fate più e lo rifarete oggi alla barba in faccia dei cattivi che ci obbligheranno a rinunciare alle nostre tenaci tradizioni? La nostra Weltanschauung è basata su lucine a LED colorate che vendono in tutte le bancarelle, alle mangiatoie di cartapesta, ai remagi che si spostano giorno dopo giorno, o avete anche qualcos'altro? Dicevo, ci impelle e ci insegue la realtà il sindaco di Padova, Bitonci: scuole rispettino il Natale, tradizione cattolica, controllerò. Annunciato, saranno effettuate delle verifiche per accertare che negli istituti padovani non accada quanto avvenuto già l'anno scorso in una scuola del Bassanese. Vuole vedere i programmi. Vi busserà a casa, probabilmente, non so se la Guardia di Finanza, l'esercito, i servizi segreti, vi diranno: ci faccia vedere il presepe. Dov'è l'albero di Natale? E dove l'ha messo il bambinello? Ha tenuto la parte, quello si mette soltanto la notte. E i remagi sono nella giusta distanza che possiate ogni giorno fargli fare un passettino perché il giorno della Befana arrivino? E fate vedere, c'è quello stuporato che vede la stella cometa? C'è l'acquaiola? C'è il legnaiolo? Ci sono tutti i personaggi? E c'è la stella cometa sopra l'albero? Attenzione, saranno sanzioni gravissime a chi non fa questo a casa. Intanto vi continuo a raccontare. Ah no, c'è Caterina. Caterina, buongiorno. Ecco, buongiorno. Cosa gli farebbe lei? Io parlo da Verona. Brava, è proprio la zona giusta, da se quelle parti. Se io potessi, gliene darei due calci in bocca. A chi? A quel famoso preside. Ah. Che voleva togliere. Ma lei fa arti marziali? Lei sta parlando. Signora, no, signora Caterina. No, mi lasci parlare. No, mi dica, no, è importante per la vericità di quello che dice. Ascolti. Lei fa arti marziali, come fa ad arrivare con un calcio in bocca a un uomo? Se potessi. Ah, dovrebbe fare karate, kung fu. Ah. E guardi che io non sono neanche religiosa. Penso non un po'. Appartengo a nessuna religione. E quindi? E quindi io dico che ogni posto dove vai ti adegui alle loro abitudini, loro vita. Ma lui è italiano. Sono venuti qui per comandare. Ma chi questo? Chi questo? Lui è di Rozzano. Tutti gli extracomunitari che arrivano qua. Ma lui è di Rozzano, professore. E questo lui cerca di favorirli in questa maniera. E cosa ne ottiene in cambio? Ottiene in cambio che vi sarebbero tutti da mandare a casa loro. Sì, ma no, cosa ottiene in cambio il prestito, se è giusta la sua tesi per cui merita calci in bocca? Cosa ottiene? Merita calci in bocca perché è giusto che si adeguino questi bambini alle nostre abitudini religiose. Io sono nonna, ho avuto dei figli a scuola, ho dei nipoti a scuola, ma tutti gli extracomunitari che vanno a scuola si adeguano al nostro credo, che poi non è neanche il mio perché io non sono neanche... E lei non si è adeguata allora, però, scusi. Come dice? E lei non si è adeguata, non è credente. Sono inadeguata? Non è credente, non è adeguata al suo credo. Ma io non sono adeguata, però non la trovo una cosa ingiusta. C'è una cosa formale, non ce ne importa niente poi in realtà di quello ma che è il Natale. Ma se non me ne importa niente, cominciano a comandare così. Ah beh, quella pure che comandi, è molto chiaro, molto chiaro. Comandano loro e va lo bene. Dicono. Sì, ma è giusto, è giusto. Si comincia dal bambinello e poi si va a finire chissà dove. Giovanni. Buongiorno. Sì. Senta, io chiamavo perché ho sentito la trasmissione, siccome che per le tradizioni che abbiamo io non vorrei perdere, io sono stato nei suoi paesi e mi hanno obbligato, non obbligato, mi hanno detto: se tu vuoi venire qua dentro devi toglierti le scarpe. Ma i suoi paesi di chi? Di chi i suoi? Come nei paesi islamici, ha capito? Pronto? Ah sì, ma adesso che c'entrano gli islamici? Stiamo parlando di un preside di Rozzano. No. Sì, beh, però le dicevo questo, io sono andato nei suoi paesi e ho usato... Ma non è, lui non è, lui è nato italiano. È vero, però le nostre usanze noi le teniamo, loro, anche loro tengono le sue e guai chi le tocca. Le sue di chi? Le sue di chi? Le sue di loro? Di quelli che... Le loro allora. Presente, allora. Le loro, non le sue. Sì, no. Le loro. Tengono le loro, e quindi... Io sono... Scusi, ma il presepe lo fa? Come? Il presepe lo fa, penso. Io sì. Dove è ambientato? Dove è ambientato il presepe? Guardi, l'ho fatto una volta con tutta sabbia gialla ambientato nel deserto. Ma quale deserto? Della Pa? Palestina. Era Palestina. E quindi, era Palestina. E quindi è roba loro, non è roba nostra. Va bene, però io l'ho fatto anche così, guardi. E poi molte volte... Scusi, ma lei ci metta allora il cemento, ci metta le villette no, a schiera. Ci metto la barbigia che ce l'ho, guardi, io ci metto la barbigia che ce l'ho finché voglio. Hai capito? Ah, sì, beh, se in Palestina c'è il deserto, ci sono le moschee. Va bene, allora... La sinagoga, lì allora. Non lo facciamo in Palestina. Ma dove è nato Gesù? Gesù è nato a Betlemme. Che è in Palestina. Vabbè. Quindi... sì, ma perché Gesù è nato a Betlemme, noi non dobbiamo... dobbiamo No, è semplicemente la mia, è una meticolosità nei sì, particolari. Sì, giusto, lei fa bene il suo lavoro, fa bene. Far capire, il nostro e loro quando si parla di Dio è proprio un po' difficile. Io dico non è una geografia. Non dobbiamo, perché qualcuno non le va bene... abbandonare le nostre tradizioni. È molto, molto chiaro, è giusto. Quindi finiamo la storia del professore, se no non faccio bene il mio lavoro. Dunque, pare, almeno quello che leggo dalle cronache sui giornali, che alle proposte che hanno state fatte a questo dirigente di fare un canto di Natale, un saggio musicale che sarebbe stato il 21 gennaio, prima di Natale, noi adesso spostiamolo al 21 gennaio. E invece di chiamarlo festa di Natale, chiamiamolo festa d'inverno, che in realtà l'inverno, il 21 gennaio, è già passato, perché l'inverno ufficialmente è il 21 dicembre, solstizio d'inverno. Il 21 gennaio, ormai l'inverno è passato da un mese, quindi magari lo potete anticipare al 21 dicembre, che era una bella festa, era il solstizio d'inverno, metteva d'accordo tutti. Invece no, l'ho spostato dopo e magliene in corse. La festa d'inverno non funziona, tutti volevano il canto di Natale, e quindi sul canto di Natale questa mattina non ci stiamo interrogando. Però vorrei degli interventi un po' più circostanziati. Come abbiamo capito nei due interventi che hanno riassunto tutto un malessere generale, un malcontento, una giusta indignazione di questi due signori che hanno chiamato e dicono le loro tradizioni non vanno imposte sulle nostre. Però adesso parlatemi delle vostre tradizioni, parlatemi di quanto voi, con quanta apprensione state facendo comunque quello che è il calendario dell'avvento, perché se siete tradizionali osservanti starete pensando al calendario dell'avvento, starete pensando a dare un senso profondo e trascendente alla festa natalizia. Sapete cosa accade il giorno di Natale, quanto è importante. Ecco, se lo state facendo, fate bene a difenderlo. Ma se voi l'unico problema è quello di andare dal cinese a comprarsi 3 euro di stelle filanti per metterle appoggiate in un angolo della libreria e metterci sotto un led luminoso che magari c'ha la faccia del gatto cinese, quello che muove il braccio, è tutt'altra cosa. Ci fermiamo un istante? A che ora devo dare la linea? Altri 2 minuti, allora ho tempo per parlare con Adelmiro. Adelmiro, buongiorno. Buongiorno a lei. Io ritengo che la scuola sia il luogo più adatto per tramandare, divulgare cultura, abitudini e tutto quello che insomma poi ne fa di un popolo la civiltà. Quindi al di là adesso negli interventi precedenti legittimi tra l'altro io ritengo le mie tradizioni da buon meridionale mi impongono già dalla vigilia dell'Immacolata di cominciare a preparare l'albero, di preparare il presepe, di preparare tipica tradizione meridionale l'albero di Natale. Tipica. Non sto dicendo che è meridionale o settentrionale, dice è la sua tradizione. Una mia tradizione, è una tradizione che a me è stata inculcata a scuola. Quando arriva Natale ci si prepara al Natale anche attraverso i segni, attraverso i modi. I segni esteriori quali sono? Al di là che siano condivisi o che non siano condivisi, il Natale da noi è rappresentato dall'albero di Natale ed è rappresentato dal presepe. Insomma, e qua l'amico napoletano scrittore ce ne ha dette di tante a proposito delle filosofie sui due segni del Natale. Ma al di là di questo, io quello che dico è, diciamo che l'albero lo fanno tutti, scuola, il presepe è un pochino andato in disuso, però adesso è risalito proprio. Ma io lo faccio tutti gli anni e tutti gli anni lo abbiamo. Sì, ma in questo il merito lo sa di chi è. A Spacca Napoli acquistare nuove soltanto, statuette. Ci sta solo chi abita da quelle parti a Spacca Napoli. La maggior parte degli italiani li comprano grazie ai cinesi. Se è stato rilanciato il presepe in Italia, che non lo faceva più nessuno dagli anni 80, è perché i cinesi hanno rimesso sul mercato a prezzi accessibili dei set completi con tutti tutti personaggi fatti anche bene. Ma è vero. Così, da noi fanno tutti gli anni. Sì, ma da voi, ma il mondo è non siete voi, bello, non siete soltanto voi. Sì, ma non c'è soltanto Napoli, c'è tutta Italia. Non c'è soltanto, io le sto parlando. Nelle Lande del Bergamasco non c'hanno l'artigiano napoletano che fa pulcinella. Vanno dal cinese, che è l'unico che glielo porta, sennò sarà perso. Secondo lei l'Italia è diventata già tutta cinese? Secondo me, per fortuna, io sono tra quelli che non vanno nel negozio dei cinesi, ma va là in quei discorsi. Perché abita lì lei, scusi? Perché lei è fortunato. In quelle botteghe artigiane, e ce ne sono a migliaia, mi creda, là dove vengono ancora fatti in maniera molto molto artigianale. Sì, ma guardi, potevano essere falliti tutti questi nel giro degli ultimi anni, mi creda. Io ho appassionato di presepe, finché i figli erano in età di apprezzarlo, poi alla fine hanno detto, papà, non ci abbiamo più voglia, fine. Lo facciamo così se ci va, ma non ne sentiamo manco. Sì, ci piacerebbe. Ma non si trovano più, diciamo, una volta capito che a Piazza Navona a Roma era tutto in mano a Mafia Capitale, quindi hanno debellato anche il mercatino di Piazza Navona. Per trovare oggi dei decenti personaggi per il presepe si fa il negozio dei cinesi, sono bellissimi, sono fatti in Cina, non li facciamo più noi, si era esaurito. Ma perché si è esaurito il mercato? Perché gli italiani non lo compravano più, non compravano più il presepe, era finito. I cinesi hanno rimesso questa tradizione in ballo. Quindi se in fondo noi oggi abbiamo supporti concreti al nostro immaginifico senso religioso, dobbiamo anche a quelli che sono venuti qui e ci hanno riportato fatti in plastica a Hong Kong gli stessi pupazzetti che una volta erano fatti in gesso, si rompevano e si ricompravano ogni Natale. A tra poco. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. Il discorso del concerto a Natale, l'anno scorso l'abbiamo fatto appena prima di Natale, quest'anno la tempistica è un po' diversa, non pensavamo che fosse un problema così grande. Altro è la questione dei canti religiosi, a richiesta di due mamme che sono venute a sedersi in questo ufficio dove siete ora voi, alle quali io ho risposto che non mi sembrava il caso di introdurre delle situazioni di divisione all'interno delle classi. Classi che sono multietniche e quindi multiculturali e quindi di diversi orientamenti religiosi. 800240024, questa dichiarazione del ex dirigente scolastico reggente Marco Parma, che a questo punto si è dimesso. Inutile mi scrivete che sembra quasi che io sia una sorta di responsabile dell'invasione islamica dell'Italia. Sono una persona serena, almeno da questo punto di vista, almeno quando sto ai microfoni della mia radio, e non devo a un miracolo il fatto che stia qui o qualche santo che io abbia in paradiso, credetemi. Se uno sta qui è perché il suo lavoro comunque va bene all'editore che ti dà il microfono, se no non ci starei qua. Nessuno rivendicherebbe la mia presenza, nessuno scenderebbe in piazza, nessuno telefonerebbe, nessuno farebbe pressione, questo ve lo posso assicurare. Finché ci starò vuol dire che è un rapporto di reciproca soddisfazione tra chi mi fa lavorare e io che lavoro con grande piacere, grande soddisfazione e anche con molto impegno. Vuol dire, a me questo prese non è che lo consiglio da crocifiggio, la prendere a calcio, come dice la signora, mi sta persino simpatico, gli hanno dato tutti i calci in bocca. Le stesse mamme dei bambini musulmani hanno detto, ma noi non ci dava nessun fastidio. In effetti non so se ci sia dietro, quale grande panna montata ha fatto sì che diventasse un caso nazionale. Ma è un'occasione per parlare di quelle che sono le maniere esteriori per avere comunque degli elementi di coesione culturale, e mi sta bene parlarne. Non mi piace che improvvisamente tutti si accorgano, sono fondamentali per loro questi elementi in un momento di divisione, per creare delle barriere. Sono fondamentali, benissimo, accettali con serenità, accetta anche quelli degli altri. Non mi pare che ancora nessuno abbia in casa persone che ti vengono a arrestare se metti l'alberello, se fai il presepe. Parliamone con un pochino più di serenità, se possibile. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno. Che, Nicoletti? Sì, fino a prova contraria, sì. Senta, poi lei ancora non sta parlando di una cosa molto importante, che è la laicità dello Stato. Va bene? Non sta parlando di quello che è tutta l'ostentazione di tutti i segni religiosi nei luoghi pubblici. si ricordi che esiste un concordato dove dice libera Chiesa e libero Stato, dunque queste cose continueranno ad avvenire sempre, a capitare, perché c'è questo sbaglio. Io sono, guarda, se dipendesse da me io lo rivedrei il concordato, perché il concordato fa sì che esistano ancora dei preti che facciano lezioni di religione nelle classi, nei luoghi pubblici, però grazie al concordato comunque sono professori a tutti gli effetti gli insegnanti di religione. Non si deve fare nei corsi pubblici. Cosa c'è nelle scuole statali? Non sì, ma scusi, fare. Ma c'è, comunque c'è. Mi parlava una madre questa mattina, cioè, il figlio è l'unico nella sua scuola che non fa l'ora di religione, quando si alza e esce sembra di leggere le memorie di Giovanni Papini, quando lui bambino, figlio di Mangiapreti e un altro bambino ebreo, uscivano dalla loro classe, li guardavano come fossero due senza Dio. E lui passava questa ora nel corridoio con quest'altro bambino ebreo con cui non parlavano, ma erano gli unici emarginati. Beh, se il contrario, beh, se una scelta felice, motivata, intelligente, interessante, auspicabile di fare l'ora di religione, no? Chi non la fa esce e viene visto come quello che non fa l'ora di religione. Detto questo, sono d'accordo con lei, certo, dovrebbe essere uno stato laico. Il concordato c'è, parte del concordato fa sì che a scuola comunque sia attribuito anche, anche se così non dovrebbe essere, si millanta come storia delle religioni, in realtà è a tutti gli effetti insegnamento di dottrina. Fa parte del concordato, va bene, andiamo avanti. Danilo. Sì. Buongiorno Nicoletti. E non parla solamente un altro, parla una persona che si colloca tranquillamente nella tradizione cristiana, battezzato, sposato in chiesa, figli battezzati, quindi lo dico perché dovrebbe esserci più serenità in queste cose, non bisognerebbe alzare le barricate proprio nel momento in cui ci sente più insicuri. Vincono le persone più serene, secondo me. Prego. Il problema è proprio quello, perché ormai la serenità non c'è più. Visto il malcontento, il gesto del preside ha creato chiaramente ulteriore. E lui ha fatto il primino della classe in un momento che era forse meglio abbozzare un po' e starsene tranquillo, secondo me. È giusto quello che dice lei, condividiamo anche altre religioni, ma non abolire i nostri canti religiosi. No, ma lui aveva detto spostiamo, no, lì c'erano due mamme che erano andate con la Bibbia, volevano andare in classe a far dire i canti religiosi ai bambini, mi sembrava un po' eccessivo, dice beh, lasciamo perdere. Diciamo che c'è stato uno scontro fra radicalismi e in questo momento ha vinto il massacro del preside, secondo me, però lui magari potrà trovare una maniera più morbida. Infatti, sì, quando uno gestisce deve capire che si gestisce attraverso i compromessi, almeno in questo momento è così. Beh, sicuramente non doveva, in questo momento, ripeto, deve essere un po' più morbido. Sono tanti, la gente certo. Purtroppo non è pronta a fare quello che l'Europa ci chiede o anche il Papa ci chiede, perché di fatto poi si stancano. Quindi ad abbracciare tutti quanti, visto quello che temiamo, allora tu imponi anche una cosa del genere, chiaramente c'è la rivolta. Ma secondo me, siccome ci si tratta con ragazze, uno potrebbe trovare delle maniere, non dico per far contenti tutti, ma per dare serenità a tutti, senza creare per forza le barricate. Però è molto difficile, impegnativo. Gli è andata male, l'avesse fatto una cosa del genere 3-4 anni fa, nessuno se ne sarebbe accorto, oggi gli è andata male. Ma è così, ma non è che sarà bruciato nella pubblica piazza, poi alla fine non succederà nulla. Elisa, buongiorno. Buongiorno. Ma io volevo fare un intervento un po' in controtendenza, nel senso che io sono atea, ho due figli che sono stati costretti a sorbirsi tutta la religiosità che è presente nelle nostre scuole. Allora, siccome siamo in uno stato laico e la scuola dovrebbe essere laica, credo che rinunciare ai canti di Natale religiosi sia assolutamente sacrosanto. Diverso è festeggiare il Natale, che ormai è una tradizione italiana che poco o pochissimo ha a che fare in realtà. Lo considero puro folklore, dico sinceramente, salvo le persone per cui è un momento importante dell'anno liturgico, per il resto è puro folklore, i negozi sono già addobbati da metà novembre, quindi non venite a dire che si rientra in un solco di una tradizione religiosa che attraversa un popolo e ne è il cemento, la coesione. Poi per chi seriamente il Natale è un momento altissimo dell'anno liturgico, pieno rispetto, non è questo il caso secondo me. Prego, Elisa. No, infatti sono perfettamente d'accordo con lei, cioè la religiosità secondo me dovrebbe essere un fatto personale che uno si gestisce in modo personale di tutte le religioni. e staremmo tutti molto meglio al mondo. Purtroppo, vede, quando manca la serenità anche nell'affermare una propria identità, c'è una, a base una profondissima insicurezza, soprattutto nelle radici spirituali e trascendenti di tale tradizione. Questo è il problema. Le persone fossero tranquille e serene, ma non gli importerebbe assolutamente nulla se a scuola si faccia o non si faccia il canto di Natale, se lo farebbero a casa davanti al focolare o davanti all'alberello o davanti al termosifone o davanti alla candela accesa, come si faceva nelle vecchie famiglie, e la sera direbbero le preghiere, farebbero il digiuno e farebbero quello che si è sempre fatto nel solco della tradizione sotto Natale. Antonio. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Io volevo inquadrare nella realtà l'episodio del dirigente scolastico. Cioè, si tratta, a quanto ho potuto verificare io, della richiesta da parte di due mamme. Sì, l'abbiamo già detto, è la terza persona che lo dice, no, però l'abbiamo allora, già detto. Ricavare da questo tutta una montatura giornalistica, secondo me è sbagliato. Sì. Cioè, da un episodio minimo. Per cui sì, Antonio non ha voluto. Sì, ma abbiamo già detto cosa è accaduto veramente, si è capito, l'ha detto lui stesso, abbiamo fatto sentire la sua voce un istante fa. Non è una montatura. Se da questo episodio, piccolo e trascurabile, si è creato un caso nazionale, a me, giornalista, mi interessa capire cosa ci sia alla radice di questa esplosione, perché oggi accade una cosa del genere. E sto sentendo con il pubblico che la mia fonte primaria di informazione sul sentire della gente, perché mi piace, mi interessa, esattamente capisco che c'è un livello di tensione esasperato, c'è un livello che va oltre la serena acquisizione di una tradizione storica, religiosa, culturale. C'è qualcosa molto di più, si sta consumando una sorta di battaglia epocale, di scontro fra civiltà, per cui anche il pastorello del presepe diventa un buon motivo. A tra un istante. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Un ciliegio grande e bello disse a un piccolo alberello: sì, sei bravo, hai messo i fiori coi loro petali a colori, ma cambiarli poi nei frutti alberello non saprai. Roba da giardino zoologico. Però è ammaestrata bene. Ma scegliamoli questi bambini, io sono impressionabile. È la figlia del ragionier cimpanzé o del cavalier gorilla. Cita, ti piace la faccia? Cita, te la dai il salto mortale. No, no, cita, no. Questo a prova di quello che vi sto dicendo. Anno 1975, nel film di Fantozzi, dedicato alle tante angherie che subiscono gli impiegati, per la recita di Natale, Mariangela Fantozzi recita questa poesiolina di Natale davanti ai grandi capi che in realtà la trattano da babbuino, la prendono in giro. Ma volete mettere di fronte a quello che ha fatto il preside un episodio di così chiara blasfemia, di iconoclastia così profonda, di dispregio di ogni sacralità, dei valori nazionali, della bambina, dice la poesiola di Natale, presa in giro, brutta, e che poi tutti la, quello che rappresenta il potere politico economico del paese dimostra così poca capacità di comprendere il messaggio cristiano di quella poesia? Beh, nessuno si indignò allora, perché era il 1975 e non c'erano barriere da difendere. In quegli anni, mi ricordo ancora, i preti facevano i presepi con i carri armatini perché volevano in qualche maniera, i preti quelli più di frontiera, dimostrare che erano contro la guerra nel Vietnam o qualcosa del genere, e suonavano le canzoni di John Betts con la chitarra davanti al presepe, capito? Ma nessuno si indignava, è questione soltanto di momento storico, quindi non pensate che nessuno sta attentando alle radici, alle vostre tradizioni. Continuate tranquillamente a fare tutti i presepi del mondo, solo che è un mondo in cui in questo momento certe scelte sono scelte che devono essere profondamente sentite o sentite nella loro gradualità, con consapevolezza. Faccio presepe perché mi diverte, mi piace, se no non saprei dove appoggiare i regali il giorno di Natale. Faccio l'albero perché mi mette allegria, se no mi metterebbe depressione. faccio il presepe perché credo fermamente che quello sia il momento in cui il Redentore nasce e per tutti gli uomini. Dipende, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma se vivete nella paura farete il presepe con lo stesso senso di clandestinità di quei preti che devono dire messa sotto il regime stalinista, come faceva Don Camillo quando andò in Russia nella gita aziendale con Peppone, che si era nascosto crocifisso dentro una specie di truss di beauty case. Ulderico, buongiorno. Buongiorno. Sì, Ulderico, certo. No, volevo dire due cose semplicissime. La prima è questa. Mia nipote non fa l'ora di religione, non è costretta a farla, a stare nel corridoio, fa un'ora alternativa a Poli, che è un piccolo paese. Io parlavo di Giovanni Papini, sto parlando dei primi anni del Novecento, è la citazione. Sì, sì, sì. Era dal muro dei Gelsomini, memorie fanciulleschi, sì, Giovanni, sì, Papini. No, diciamo, a 39 km da Roma non succede niente, tutto tranquillo. Cioè. Io invece volevo dire una cosa sul preside Parma. Sì. Se due mamme hanno chiesto di fare i canti religiosi, perché ha fatto scatenare questo cancan giornalistico, eccetera? Perché l'aspettavano al varco, evidentemente. Con tutto quello che segue, quando sarebbe bastato parlare un attimo con i genitori dei bambini di altre confessioni. Hanno già detto che a loro non gliene importava niente, almeno ho letto le dichiarazioni. Appunto, allora, se non gliene importava niente, a quel punto lui non aveva nessun problema. Soltanto che dietro, prima hai citato. Ma ci siamo già detto, Ulderico, abbiamo avuto fare il primino della classe. Pensava di essere Garrone che alzava il braccio e tutti c'erano bravo. E il poraccio gli è andato tutti addosso, compreso il presidente del consiglio. Si è mosso Renzi su sto prese. Pensate cosa è andato a toccare di meccanismo delicato negli equilibri contemporanei. Quindi, poveretto, ha fatto la cosa sbagliata nel momento sbagliato. Daniel. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Chiamo perché io sono di Milano, 39 anni, e ebreo, ho sempre fatto le scuole pubbliche in Italia. Ah, come l'amico di Giovanni Papini che usciva, sì, durante l'ora di religione. Sono sempre uscito durante l'ora di religione, per fortuna non rimanevo in corridoio, facevo altro. Però scusi, vi faccio capire, perché voglio... Una mamma questa mattina mi ha detto la stessa cosa, dice: quando esce mio figlio viene visto come una sorta di senza Dio, non so, perché non è il contrario, che i bambini che vanno a fare religione escono e vanno a fare religione e gli altri rimangono a fare un'altra cosa, non sarebbe più logico? Sarebbe più logico sicuramente, però posso anche dire che c'è anche molto conformismo, come diceva lei prima, sul fatto che i bambini facciano religione, perché... A parole la maggior parte delle persone si dichiara o agnostica o atea, poi nella realtà della forma si vede che i bambini vengono battezzati, che non è un male in sé, però sì, probabilmente... Ma anche molti di voi circoncideranno i bambini e non gliene frega una mazza, probabilmente, succede in tutto, ormai la secolarizzazione fa parte delle tradizioni, è una tradizione fa sentire le persone appartenenti comunque a un qualcosa che ci dà conforto, poi nell'ambito dei vari comportamenti io convinto che si rimane il finone anche della pratica religiosa, è un bene tutto sommato, l'importante è che ci sia la serenità nelle persone che non lo condividono, il potere esercitare. Ma come diceva lei, c'è molta insicurezza in tutto ciò, perché questo cancan che c'è stato mediatico, ovviamente 10 giorni dopo i fatti di Parigi, si è chiaro, visto come un attacco culturale alla propria identità nazionale, religioso, popolare. E per cui, ha sentito le telefonate, la gente inviperita, mi dà a me del filo islamico. Assolutamente, perché... anche perché non si riesce a capire, secondo me la fase trimentale, come è successo nel 1901 in Francia, a proposito di inizio secolo, è il concordato. Finché noi siamo comunque abituati come uso comune, che il concordato è cosa giusta, io non entro nel merito se è cosa giusta o sbagliata, ma se nel valore comune il concordato è cosa normale, allora no, io guardi, se potessi il concordato lo rimetterei in discussione, anche perché lo fece Mussolini, visto che abbiamo ormai sconfessato tutto quello che è accaduto durante il ventennio. È stato anche rinnovato nell'84, sì, è chiaro, ma perché evidentemente conveniva. Noi siamo sotto schiaffo, dobbiamo fare un giubileo che non importa niente a nessuno e tutti sperano che vengano 4 soldi, come se fosse un valore che attraversa il cuore di tutta la città. Stiamo qui con i soldati dentro le metropolitane e io abito accanto a San Pietro e con la paura che inizi adesso il giubileo dobbiamo stare ancora più attenti. Però li ha avuto come battuta in un momento in cui le identità stanno veramente cambiando, perché se 30 anni fa c'erano le grandi ideologie, giusto o sbagliate che fossero, ma che comunque davano certezza alle persone, in questo momento, se non vogliamo i fondamentalisti in casa, dobbiamo trovare un'identità. E in questo momento o la troviamo forte sulla politica, ma è difficile, o sugli ideali, o comunque rimane la religione. E sì, punto però lei dovrebbe insegnare a me che la religione ha vari aspetti. Però il Padre Eterno non si prende per il culo, mi scusi la libertà. Capisce? Sì, non possiamo far finta che questo sia religione, che le mamme inviperite che dicono deve suona cantare Jingle Bell, questo è un canto religioso, non hanno capito assolutamente niente, facciano parte di un comportamento religioso. Un popolo che ha un comportamento religioso, poi in qualche maniera, diciamo almeno al 20%, lo applica nel suo vivere quotidiano, nella sua prassi quotidiana. Non è soltanto fare il presepe a Natale e arrabbiarsi con quelli che si vedono pregare in altra maniera, secondo me, ma io sbaglio, sono l'ultimo dei credenti, finirò nell'inferno con i diavoli, con il forcone per l'eternità, ne sono sicuro, quindi non sono io che devo dar lezioni, però avanzo qualche debole ipotesi. Paola, buongiorno, grazie Dani. Buongiorno. Sì. Io volevo semplicemente riportare l'attenzione in tutta questa storia sui bambini. Invito tutti a pensare che in queste aule poi ci sono dei bambini che sono compagni dei nostri figli, che sono amici con i nostri figli e che comunque loro si vogliono bene, non guardano in faccia nessuna religione, nessun credo. Ecco, lei ha detto una cosa molto giusta. L'amica mia che ho detto all'inizio, il bambino ha 4 anni, va in una scuola con bambini 4 anni e lo guardano come un emarginato perché non fa l'ora di religione, e non è una maniera per far sentire serenamente i bambini tutti uguali tra loro. A tra poco, cioè a domani.